Ninna Nanna Gradese. Dormi in pace, fantulin, che to pare a vele in croce. Suffia largo in mar, garbin, fa la nana, fior de rose. Fa la nana, mamolusso, che to mare speta il ben. Fa la nana, bel cavusso, che to pare in svolo il vien. Canta il vento là de fora, sulle vele vampa il sol, e il mio amor col vento el svola. Dormi fondo, mio tesor. Dormi in pace.